Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che naturalmente oggi 24 aprile è un po' altro che celebrare la giornata di domani, 25 aprile, festa della liberazione dell'Italia dal nazifascismo e ritorno alla democrazia. Per intersecare i fumetti a questa giornata di lotta, utilizziamo dalla rete un blogger, Marco Tonus, che fa un bel excursus del partigiano nei fumetti, partire ancora dentro al fascismo, in questo blog Resistenza Fumetti e Fumetti per Resistere. Il rapporto tra resistenza e fumetto va avanti da oltre 70 anni. Devo fare una doverosa premessa, ovvero sia che il fumetto, come tutte le forme d'arte, è invisa alle dittature. E anche in Italia il fascismo pose la sua mannaia, quella della censura, su tutta la produzione. Questo vide la totale mancanza di fumettisti che potevano raccontare quello che volevano e tutto era vincolato alla narrazione di una grande nazione, di una nazione potente, imbattibile, con l'epica chiaramente dettata dal fascismo. Cosa succede però? Che una cosa molto curiosa è nel 1942 esce un albo che si chiama Il prigioniero dei partigiani ed è molto curioso perché appare per la prima volta la figura di un resistente. Questa figura appare come ovviamente un nemico, ma su un fumetto approvato dal regime. Questo ci dice molto, vuol dire che i partigiani già nel 42 erano una minaccia per questo regime e attraverso il fumetto hanno cercato di inculcare nella mente dei più giovani che queste persone erano poco raccomandabili. Quindi la prima apparizione di un fumetto partigiano è stato fatto proprio dai fascisti. Nel 1940 esce un fumetto dell'Intrepido che si chiama Cuore Garibaldino, che racconta una storia su Garibaldi e sul Risorgimento. Col passare del tempo queste avventure a puntate virano. Perché? Perché ci stiamo avvicinando alla liberazione e quindi il pretesto di una storia sul Risorgimento diventa un pretesto per raccontare invece la liberazione d'Italia. E qui il fumetto passa da Cuore Garibaldino, inteso come quello dei mille, a Cuore Garibaldino, inteso come formazione partigiana. Ed è molto curioso vedere questo passaggio che sente che sta cambiando qualcosa. Nel 1945 le edicole tornano piene di fumetti, di avventura, di intrattenimento, ma anche di fumetti che raccontano l'epopea partigiana. Uno di questi è Chouchat, ispirato agli scugnizi napoletani che avevano a loro modo combattuto il nazifascismo, ed è molto interessante vedere come anche il fumetto abbia voluto raccontare quello che è stato un movimento popolare di insurrezione. Nel 1946 nelle edicole italiane arriva il primo fumetto interamente dedicato a un partigiano, si intitola proprio Pam il partigiano, con questo nome di battaglia, e racconta dei fatti che si sono svolti in Toscana e a Firenze, esce in 5 albi, è interessante vedere come l'autore Nino Camus utilizza un tratto realistico, quello che da lì a poco diventerà ultra popolare grazie al fumetto Bonelli. Dopo qualche anno, nel 1950, esce in tutte le edicole, in tutte le sezioni di partito, una testata che si chiama Il Pioniere. Il Pioniere era la rivista per ragazzi destinata appunto ai figli dei comunisti e si contrapponeva al Vittorioso, invece, che era un settimanale di ispirazione cattolica. Il Pioniere, ricordiamolo che è stato diretto anche da Gianni Rodari, racconta la storia partigiana con dei fumetti. Fumetti che sono non solamente pubblicati in occasione del 25 aprile, ma proprio c'è una politica di raccontare ai più giovani a distanza di 5 anni che cosa è stata la resistenza. Fino agli anni 60 diversi giornali per ragazzi iniziano a interessarsi al racconto della resistenza a fumetti. Il Pioniere continua con le sue pubblicazioni, ma anche i giornali di ispirazione cattolica come il Giornalino dedicano ampio spazio, soprattutto incentrando le storie di resistenza dei più giovani, dei ragazzi che hanno contribuito come staffette o come informatori delle linee partigiane. Nel 1970 anche una rivista popolare come il Corriere dei Ragazzi, la versione per i più grandicelli rispetto al Corriere dei Piccoli, in occasione del 25 aprile pubblica una storia sceneggiata da Alfredo Castelli, disegnata da Ugeri, che si intitola «Quest'uomo deve morire». Il fumetto è il racconto delle vicissitudini di Duccio Galimberti, un partigiano assassinato dai fascisti proprio perché in possesso di informazioni relative alla guerra partigiana. Quindi anche qui vediamo attraverso un tratto realistico che i più giovani sono invogliati a informarsi sulla storia della liberazione. Sul finire degli anni 70 però l'Italia è scombussolata da una serie di eventi epocali, siamo reduci dal 68 e i linguaggi subiscono un cambiamento. Quindi passiamo da un racconto della resistenza in qualche maniera didattico a un racconto più applicato alla realtà di tutti i giorni. Un esempio eclatante è quello di Andrea Pazienza, autore famosissimo, che addirittura approfitta dell'elezione di Pertini, il presidente partigiano per eccellenza, per iniziare a raccontare delle storie dove i protagonisti sono loro due, Paz e Pert, ambientate appunto durante il ventennio fascista. Pazienza e Pertini sono due figure uniche nel loro genere. Il primo è uno degli autori che sta esplodendo a livello artistico in Italia alla fine degli anni 70 e nei primi anni 80, mentre Pertini è il primo presidente partigiano vero e proprio. E il duo si rivela, oltre che comico, veramente scoppiettante. Le storie, oltre ad essere ambientate in tutta Italia, un po' a scelta completamente casuale, non si concentrano sul fatto di raccontare i fatti storici per come sono avvenuti, ma racconta qualcos'altro, ovvero sia la quotidianità che attraverso la deformazione anche satirica del Presidente della Repubblica e dello stesso autore ci porta a scoprire come poteva essere la vita di tutti i giorni anche durante il fascismo. Attorno agli anni 2000 invece è un'altra rivista popolare, il Vernacoliere, testata satirica livornese, che ospita le tavole di Alberto Pagliaro intitolate I figli della schifosa. I figli della schifosa è una definizione tosco-emiliana che si dà degli ultimi, dei più poveri, di quelli dimenticati. Pagliaro nel suo raccontare, nel suo disegnare queste storie, pone l'accento su una cosa molto interessante, ovvero sia il punto di vista dei bambini, delle donne e di tutte quelle figure che sono sempre rimaste un po' ai margini del racconto della grande narrazione della resistenza, nei fumetti, se non altro. E la cosa interessante è che la delicatezza nel raccontare queste storie quotidiane dove non si vede né uno sparo né una goccia di sangue ci porta a immedesimarci nei personaggi che vengono descritti. Negli anni 2000 anche l'AMPI inizia a utilizzare il fumetto per raccontare la resistenza e lo fa attraverso le sue riviste, le sue iniziative. Una che mi piace ricordare è l'AMPI di Sacile, che nel 2012 realizza con 12 fumettisti un calendario proprio per avvicinare i più giovani a questi temi. Negli ultimi 10 anni iniziano a fiorire numerose iniziative, appunto tra cui vale la pena ricordare il libro di Baldazzini, L'inverno di Diego, ma anche iniziative di gruppi di autori collettivi che vogliono raccontare in un modo nuovo la resistenza, applicandola all'oggi. Un libro molto interessante è Res Istanze, è un libro collettivo dove molti fumettisti hanno raccontato sia avvenimenti del passato ma con un occhio di riguardo anche all'oggi. Negli ultimi anni e soprattutto nell'ultimo periodo accade un fenomeno abbastanza particolare, quello dei fumetti creati, prodotti, editati, disegnati da autori post-fascisti che iniziano a inondare non solo le librerie ma anche le scuole. Ecco, di fronte a questo fenomeno chiaramente c'è stata anche una risposta. La più curiosa sicuramente è quella di Quando c'era lui, un fumetto satirico di Antonucci e Fabbri che racconta il ritorno del Duce nei giorni nostri, con una piccola differenza, che torna con la pelle di colore nero. Questa cosa ha indignato molti esponenti di estrema destra, tanto da fare delle incursioni durante la presentazione di questo fumetto a Roma e versando della Coca-Cola, qualcuno di voi forse lo ricorderà, sugli albi. Questa cosa è interessante perché dimostra che ancora oggi ridere e prendersi gioco di queste persone le fa molto arrabbiare, e quindi capiamo che l'ironia, la satira, l'umorismo, la risata in sé è un'arma fortissima contro chi vuole invece propagare odio. Per concludere questa piccola carrellata, su non esaustiva sicuramente, su quanto è stato il rapporto tra fumetto e resistenza, oltre ad invitarvi a recuperare questi titoli se già non li avete in casa, perché oltre ad essere ben disegnati e ben raccontati, sono anche degli albi che in qualche modo ci fanno riflettere. Infine, mi preme segnalare un'iniziativa interessante che è proprio di questi giorni a Roma, una fanzine che si chiama Antifanzine, realizzata da molti disegnatori antifascisti che raccontano piccole pratiche di resistenza, una serie di fumetti di diversi autori, tra cui mi piace ricordare sicuramente Alessio Spattaro e Zero Calcare, che raccontano piccole pratiche quotidiane di resistenza. Ecco, l'invito che mi sento di fare a tutti alla fine è quello di leggere fumetti, perché leggere fumetti è una forma di resistenza, fare fumetti è una forma di resistenza, soprattutto al giorno d'oggi, e quindi vi invito a supportare questa forma di resistenza. Grazie e buon 25 aprile a tutti. dopo questa lunga carrellata di fumetti inerenti alla questione della resistenza partigiana, andiamo invece a parlare di una partigiana, anzi, della partigiana in tailleur, di Gianna Cairoli, autrice di molti libri per ragazzi, peraltro conosciuta anche per la sua attività nella TV con la Melivisione e anche al tempo con Gianfranco Ginestri, anche lui ex pioniere, uno dei protagonisti dei canzonieri dell'AME, con questi canti di lotta e di resistenza che a Bologna in particolare ben si conoscono. Questo spiega anche la nostra scelta musicale. Con Gianna Cairoli Simona Sagone ha parlato del suo libro La partigiana in tailleur. Era la sua casa, era il suo paese, la storia che racconto è di tanti anni fa, ma vennero i fascisti e lui lasciò la casa, abbandonò il paese, lontano se ne andò. Abbiamo con noi Gianna Cairoli, autrice di canzoni, oltre che di libri e di trasmissioni televisive, che in quel canzoniere delle Lame. Tu hai conosciuto Penelope Veronesi, nome di battaglia Lucia, quindi quegli aneddoti familiari li hai saputi da lei o solo da testimonianze edite? Allora, io Penelope l'ho conosciuta quando era già anziana, ma conoscevo parte della sua famiglia, perché lei abitava fuori Lame e anch'io abitavo fuori Lame. Conoscevo il fratello che è diventato primo parlamentare europeo, Protogene Veronesi, e nel quartiere eravamo molto orgogliosi di questa rappresentanza. E gli episodi della sua famiglia li ho ricercati e saputi dai suoi parenti, che ho poi contattato in fase di preparazione della scrittura del libro che mi ha commissionato la Tiziana Roversi, che è la curatrice della collana Fatterelli Bolognesi. Però riconosco in questa ricerca e in questi aneddoti che ho scoperto una etica e un modo di essere una famiglia operaia diciamo consapevole, acculturata pur nella ristrettezza di mezzi economici, che poi ha dato le radici nel cuore e nella mente di Penelope e di tante altre giovani donne come lei, che durante la resistenza o hanno fatto le staffette partigiane, comunque si sono impegnate nel movimento che poi ha permesso di liberare il nostro paese. Ecco, poi è molto bello che il libro racconta come si viveva a Bologna durante la guerra, come si giocava tra un bombardamento e l'altro, come si riuscisse ad andare a scuola, perfino ad innamorarsi. La vita vince su tutto anche durante una cosa sconvolgente come una guerra? Io credo di sì, perché dalle testimonianze che ho avuto, anche dalle persone che hanno vissuto quel periodo, per esempio il fatto che i bambini dopo i temporali sguazzassero nelle buche create dalle bombe, ecco, detta adesso è una cosa incredibile, no? Ma allora era così, e in queste strade che sembravano praticamente una fila di denti cariati, perché alcune case c'erano, altre erano bombardate, un palazzo era rimasto in piedi, era una sopravvivenza difficilissima, le file per i viveri, comunque mantenere una dignità, comunque cercare un modo di sopravvivere che non fosse solamente mangiare, ma anche guardare avanti, guardare in alto, guardare il sole, era importante, perché non si vive solamente di pagnotte. Una delle cose che mi ha molto emozionato in questa ricerca della vita di Penelope è stata appunto attorno alla famiglia operaia da cui lei veniva. Il padre faceva un mestiere insolito, disegnava le insegne dei negozi e i fresi dorati dei treni. Era un grandissimo lettore, tant'è vero che durante le sere d'estate nel cortile dove loro abitavano raccontava i romanzi che lui aveva letto, I Miserabili, Moby Dick, L'Odissea, La Divina Commedia, e tant'è vero che anche i nomi che lui ha scelto per i figli derivano da queste letture, Penelope, Dolcino, un fratello si chiamava Dolcino, e lui ai bambini diceva: vedete, la bella calligrafia può dare da mangiare. E c'era questa, diciamo, ricerca della cultura come pane quotidiano. Anche questo io ho trovato bellissimo come messaggio da poter comunicare ai bambini. Torniamo all'organizzazione delle manifestazioni del 44 che tu racconti. Quelle ragazze, quelle donne conoscevano i rischi che correvano, lo dici anche tu, però ma certo, non ma si arrendevano certo. E sfilavano per le strade chiedendo cose semplici, cibo, sale, farina, che ritornassero gli uomini dal fronte. Ma perché secondo te in piena dittatura così tante ebbero coraggio di sfidare fascisti e tedeschi e manifestare? Ma io credo che al fondo i tedeschi, i nazisti, i fascisti non erano riusciti a spegnere il sentimento di, come posso dire, di bisogno di civiltà. Io credo che le cose che chiedevano le donne erano cose di base, no? Si muovevano per cose concrete, il pane, come dici tu, il sale, le razioni che erano scarse. Però c'era in fondo un bisogno di giustizia, di partecipazione, di libertà, e io credo che siano state anche queste le molle che hanno fatto muovere tante giovani donne, tante famiglie, tante ragazze. Era un grande pericolo quello che hanno fatto, lo dimostra il fatto che alcune delle nostre, diciamo, icone del cuore, come Irma Bandiera per esempio, sono state uccise in modo barbaro. Quindi non era certo semplice stare da quella parte. Lo dimostra il fatto che dovevano usare dei nomi di battaglia, perché se uno veniva preso e denunciasse con un nome che non era quello vero. Tutte queste precauzioni che facevano parte del, diciamo, del movimento clandestino. Però il fatto che le donne hanno dimostrato questo coraggio, ecco, io credo che un briciolo di questo coraggio loro sono riuscite a trasmettermelo nel cuore, e di questo le ringrazierò sempre. Ecco, e perché tanti nomi di partigiane bolognesi che si conoscono e che hanno lasciato testimonianze e che hanno partecipato a quelle azioni, a quelle manifestazioni, tra tutti questi hai proprio scelto di raccontare Penelope, la partigiana Lucia? Cosa ti ha colpito di lei e della sua storia? Ma mi ha colpito intanto, diciamo, c'era un debito di riconoscenza. Quando io ho abitato lunghi anni a Roma, quando sono tornata ho rincontrato Penelope, che era responsabile in quel periodo di un circolo culturale che sta in Via del Pallone. E quando ci salutammo lei mi disse: adesso tocca a voi. Era un passaggio di testimone. Io allora mi defilai perché volevo fare altre cose, ritornata a Bologna, volevo occuparmi di altre cose e quindi quel circolo culturale non era nei miei programmi. Poi con Penelope non ci siamo più viste in seguito, e quando Tiziana Roversi mi ha chiesto di scrivere un libro su una partigiana bolognese, io ho pensato a Penelope. Lei mi aveva anche suggerito questo episodio della manifestazione, perché è stato un episodio eclatante, no? Il fatto che tante donne si muovessero per la città nel pericolo, che una di loro avesse preso la parola e fatto un comizio, sia pur breve, sì, per sì, non essere acchiappata dai fascisti sotto il monumento di Garibaldi in Via Indipendenza, era un fatto veramente eccezionale, no? Però io l'ho fatto anche per saldare questo debito. Io le dovevo il fatto che lei mi aveva chiesto: adesso tocca a voi. Ecco, questo tocca a voi, io ho cercato di tradurlo nel mio modo di saldare i debiti, che è la scrittura. E poi c'era questa provenienza comune del quartiere Lame, quindi conoscevo i posti, conoscevo la tipologia delle famiglie, sapevo da dove veniva Penelope, e quindi l'ho scritto doppiamente volentieri. Poi c'era questo aspetto di bellezza che lei rappresentava, questo famoso tailleur che lei usava in fondo come un travestimento. Lei si vestiva elegante perché la mamma del suo fidanzato faceva la sarta e copiava i modelli di Parigi, le faceva dei tailleur molto eleganti, insoliti rispetto al vestire dell'epoca, che visto anche il periodo di grande povertà generalizzata non era certo con l'eleganza. Ma lei si era accorta che questo girare elegante, sia pure a bordo della bicicletta, le permetteva di passare inosservata e incontrollata anche dei blocchi che nazisti e fascisti facevano nella città, e quindi le davano una specie di passaporto, perché era per loro, per questi uomini probabilmente sembrava strano pensare che quella ragazza così carina, così elegante, così insolita, fosse anche una staffetta partigiana, una che portava volantini, documenti falsi, magari a volte armi. Ecco, era il suo travestimento, e questo mi ha molto colpito. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance di aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti. Chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni e oltre il ponte, oltre il ponte che in mano nemica, vedevam l'altra riva alla vita. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocentralfugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti. A 20 anni la vita è oltre il ponte, oltre il fuoco comincia l'amore. Thank you.